Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Come faremo senza? Il programma odierno prevede di parlare di come faremo senza, nonché di confronti cervellotici.